Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ancora buon sabato. Cambiamo un po' prospettiva e ci concentriamo sugli articoli che sono apparsi in questi giorni sulle questioni, sulle grandi questioni europee. E ve ne segnalo uno che è uscito giovedì sul Corriere della Sera, un articolo di Claudio Magris molto bello, e si intitolava L'impero inerme di Bruxelles. Estesa troppo in fretta e priva di un'idea unificatrice, l'Europa sembra un pachiderma titubante. Il tema è quello della riforma della governance dell'Europa, è tornato con grande forza, tutti dicono di volersene occupare dopo che la crisi con la Grecia ha evidenziato quanti problemi ci siano appunto nel governare l'Europa, che è sì una grande federazione dove le leggi, le merci e le persone circolano liberamente, ma ci sono ancora tanti nodi da risolvere, a partire per esempio dalla politica estera, da eventualmente un esercito comune, tutti i temi che abbiamo toccato in questi mesi, in questi anni di rassegna ormai. Il disegno che illustra questo articolo di Claudio Magris è un bellissimo disegno di Beppe Giacobbe che vede diversi personaggi a un tavolo e giocano con le stelle, naturalmente le stelle richiamano la bandiera dell'Unione Europea. Ma vi leggo alcune righe, le ultime righe di questo articolo di Claudio Magris. Ovviamente noi vogliamo l'unità europea, ma non vogliamo a nessun costo costruirla con la guerra. Talora questo sogno e questo dovere, questa speranza in una reale Unione Europea sembrano la quadratura del cerchio. È una ragione in più per lavorare per essa. La tentazione di una triste e rassegnata impotenza è forte. Forse mai come oggi la delusione e la stanchezza della politica sono state così vaste e deprimenti e sembrano riecheggiare quella settima lettera di Platone amaramente deluso dal potere politico. Non resta che sperare contra spem, contro il dilagante e giustificato pessimismo. La speranza è la più grande delle virtù, proprio perché è così difficile vedere come vanno le cose e ciò nonostante sperare che domani possano andare meglio. E sempre su questo tema, cioè invece sul Sole 24 Ore di oggi, ci sono due articoli. Uno è un intervento di Yannis Papantoniou, che è stato ministro dell'economia della Grecia tra il 1994 e il 2001, e anche in questo caso il tema è quello della governance, proprio di un governo, e quindi il titolo: un governo pensato per l'Eurozona, ampliare i poteri degli organismi sovranazionali, cioè Parlamento e Commissione. Conclude Yannis Papantoniou, e come dico l'intervento lo trovate oggi a pagina 15 del Sole 24 Ore. Queste proposte susciteranno sicuramente parecchie critiche, non solo da parte degli euroscettici. Tuttavia, orientarsi verso l'integrazione fiscale, altro tema importantissimo, e politica, è il prezzo che l'Europa, a cominciare dalla zona euro, dovrà pagare per mantenere la sua unità e la sua influenza globale. L'alternativa è un'applicazione contraddittoria, se non addirittura arbitraria, delle attuali normative, che provocano divisione tra gli Stati membri e potrebbero portare alla disintegrazione. E c'è anche nella stessa pagina un articolo invece di Daniel Gross che ci torna su uno dei nodi che era sul tavolo prima che si riuscisse ad arrivare a un accordo tra il governo greco di Tsipras, BCE e Commissione Europea. Sappiamo che invece il Fondo Monetario ha una posizione un po' diversa, e il titolo del commento è: perché Atene non si è presa una pausa dall'euro? Scrive Daniel Gross. Nei primi sei mesi di quest'anno, da quando a gennaio è arrivato al governo Syriza, partito di estrema sinistra e anti-austerity, la saga greca praticamente ha monopolizzato l'attenzione dei policy maker europei. Anche quando l'economia del paese precipitava, il nuovo governo greco è rimasto irremovibile nel chiedere una riduzione del debito senza austerità, e così si è andata avanti fino a metà luglio, quando all'improvviso il governo ha accettato le condizioni dei creditori. Perché il governo ellenico ha ceduto a condizioni che non soltanto contraddicevano le sue stesse promesse, ma oltretutto assomigliavano da vicino a quelle che l'elettorato aveva bocciato in massa in un referendum popolare indetto appena una settimana prima? E la risposta è appunto perché non si poteva assolutamente pensare a una Grexit, che sarebbe stata l'ipotesi peggiore per il paese. C'è un accenno a Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, il falco del governo di Angela Merkel, e ve lo cito perché su Wirtschaftswoche, che è un settimanale tedesco, un settimanale economico, c'è un articolo, e ve lo segnalo grazie a voxeurope.eu, che sapete ha preso il posto di presseurope.eu, ma è un sito che spesso consultiamo per trovare articoli su questi temi. Il titolo di questo articolo, che trovate appunto appunto sul sito voxeurope.eu, Wolfgang Schäuble studia sul libro di storia sbagliata. E è un po' l'analisi di, perché Wolfgang Schäuble è sicuramente molto, molto coerente, molto preciso quando spiega le sue teorie sull'austerity e anche sul fatto che la Grecia non dovrebbe essere ristrutturato il debito, e questa è l'altra prossima questione, perché come abbiamo detto tante volte è stata un po' accantonata dopo l'accordo appunto di metà luglio, però il Fondo Monetario Internazionale si è proprio sfilato da tutto il tavolo dei negoziati, perché continua a sostenere con la sua presidente Christine Lagarde che il debito della Grecia non va ristrutturato, cioè diminuito, ma va restituito in toto. E Schäuble, a differenza della cancelliera Merkel, che sembra avere una posizione un pochino più morbida, è perfettamente d'accordo col Fondo Monetario Internazionale. E allora appunto vi leggo la prima parte di questo articolo, che però trovate in italiano sul sito voxeurope.eu. Il ministro delle finanze tedesco rifiuta trasferimenti all'Europa meridionale, ma fin tanto che regioni a livelli diversi di sviluppo economico si trovano in una stessa area monetaria, i trasferimenti sono economicamente inevitabili. Ce lo insegna la storia, ci spiega appunto questo giornalista su Wirtschaftswoche, che spiega anche che i libri, appunto un po' anche prendendo in giro bonariamente, perché poi comunque Schäuble è una persona molto seria, che ripeto può piacere o non piacere, ma ha un suo percorso molto coerente dal punto di vista politico e economico. Schäuble appunto cita spesso saggi economici per sostenere le sue tesi. Molti anche gli altri temi toccati sulle questioni europee in questa settimana dai giornali, forse lo ricorderete, settimana scorsa avevamo citato i dati dell'Eurobarometro che spiegava come l'immigrazione fosse in questo momento il problema principale come percepito dagli europei. Il 38% appunto degli europei interpellati ritenevano anche che questo dovrebbe essere la priorità dei governi, non soltanto la nostra paura. E allora vi segnalo da un giornale di spagnolo di Valencia, il diario del siglo XXI, c'è questa vignetta dove si vede appunto una freccia che sale oltre che indica, e sulla quale si arrampicano, scalano, una freccia un po' a scale, si arrampicano i cittadini, e dà un po' l'idea di questa preoccupazione che sale. Le Figaro ha invece parlato molto del canale di Suez, di come, sapete, ne abbiamo parlato tantissimo questa settimana, non magari noi ma comunque i giornali, il raddoppio del canale di Suez, questo successo per il presidente dell'Egitto Al-Sisi, però ci potrebbero anche essere delle ripercussioni nei rapporti con l'Europa, e Le Figaro spiega come Hollande sia stato all'inaugurazione, lo abbia fatto anche per ragioni proprio strategiche, economiche, cioè di diventare comunque un po', di restare uno dei partner privilegiati dell'Egitto e di riuscire a sfruttare al meglio le nuove potenzialità di questo raddoppio del canale di Suez. Su Euronews vi segnalo che sono stati aggiornati i dati di Frontex, che è il sistema dell'Unione Europea per monitorare anche l'immigrazione, con dei numeri che sono veramente impressionanti, perché nel solo mese di luglio sono arrivati in Grecia quasi 50.000 migranti. Ecco, la Grecia, che sicuramente ha un'emergenza economica da affrontare peggiore di quella italiana o di quella spagnola di qualche anno fa, ha anche a sua volta, essendo uno dei primi paesi dove sbarcano i migranti che arrivano dal nord dell'Africa, anche questo problema come noi dell'accoglienza. E appunto gli ultimi dati di Frontex indicano come 50.000 le persone arrivate nel solo mese di luglio sulle coste greche. E di questa notizia dà conto Euronews, dicendo che comunque dalla Grecia sono già arrivati numerosi appelli perché l'Unione Europea aiuti, abbia un ruolo maggiore. Se vi suonano familiari questi appelli, sono naturalmente quelli che sono stati fatti più volte dall'Italia. Vi segnalo dal Guardian un'analisi invece del TTIP, quel grandissimo trattato che dovrebbe, per il libero scambio, che dovrebbe rivoluzionare nelle intenzioni e migliorare i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. Ci sono però molte critiche, alcuni di più ottimisti pensavano che avrebbe già potuto essere firmato entro i primi mesi del 2016, probabilmente sarà firmato prima delle presidenziali americane di novembre, ma non tanto prima, e comunque ci sono ancora tantissimi nodi da risolvere. Ce ne occuperemo sicuramente da qui appunto a novembre del 2016. Era però l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, ci sentiamo domani un pochino più tardi, e domenica la rassegna stampa italiana sarà intorno alle 8:30. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.